giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo le tensioni politiche degli ultimi giorni in seno alla maggioranza di centrodestra, oggi nuova seduta del Consiglio regionale dopo la clamorosa protesta delle opposizioni che ieri avevano abbandonato l'aula. Nonostante l'occupazione mai così alta in regione, negli ultimi 15 anni il potere d'acquisto dei lavoratori si è molto ridotto, colpa anche di stipendi da tempo al palo. Ha preso il via a Udine una 2 giorni dedicata al contributo che l'intelligenza artificiale può dare all'agricoltura. Esperti del settore accademico e istituzionale discutono opportunità, rischi e applicazioni concrete con focus su governance dei dati e strategie europee. Sequestrate nel Maniaghese 3.500 forbici per odontoiatria. I prodotti erano stati importati dal Pakistan, ma l'azienda aveva apposto il proprio marchio. La regione si attesta tra le migliori in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti. Trieste rimane sotto l'obiettivo prefissato, ma si sta cercando di provvedere. Le 12:31 minuti e 30 secondi, ancora un buongiorno da Giorgio Bearzi e Francesca Terranova a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 21 maggio. In apertura dunque torniamo ancora a occuparci delle tensioni politiche degli ultimi giorni in seno alla maggioranza di centrodestra, oggi nuova seduta del Consiglio regionale, il giorno dopo la clamorosa protesta dell'opposizione che ieri avevano abbandonato l'aula poiché era stata respinta dal presidente Bordin la richiesta di un'audizione col governatore Fedriga in merito alle annunciate dimissioni di alcuni assessori. In studio con noi Francesca Vigori, quali sono le ultime novità dopo il Consiglio regionale che si sta tenendo ora in Regione? Sì, il presidente Fedriga, la cui presenza in aula era prevista, ha chiesto congedo, quindi non c'era. Le opposizioni l'hanno definita una fuga in Consiglio. È scoppiata la bagarre dopo che l'elenco delle interrogazioni e risposta immediata, passate quelle all'assessore di Fratelli d'Italia Cristina Mirante, è arrivato a quella parte di giunta che aveva rimesso le deleghe. Per la minoranza quegli assessori non erano legittimati a rispondere e ha protestato con forza per l'assenza di Fedriga, da cui avrebbero voluto una spiegazione sulla crisi della maggioranza. I toni si sono alzati, il presidente del Consiglio Bordin ha invitato le opposizioni a non fare dell'aula un teatrino. La seduta è stata sospesa e una rapida riunione dei capigruppo ha riportato un po' d'ordine. Ogni consigliere di opposizione a quel punto ha ritirato la propria interrogazione, riservandosi di ripresentarla dopo i chiarimenti di Fedriga, e poi è uscito dall'aula. Ad ogni interrogazione gli assessori hanno dato risposta, anche se in aula era rimasta solo la maggioranza. Maggioranza che oggi si mostra più ottimista sulla ricomposizione della crisi. Ieri è stato osservato, la legge multisettoriale è passata con i voti di tutti, Fratelli d'Italia compresi. Se avessero voluto lanciare un segnale, è stato osservato, quella sarebbe stata l'occasione. Grazie Francesca Vigori. E ora i temi del lavoro. Nonostante l'occupazione mai così alta in regione, negli ultimi 15 anni il potere d'acquisto dei lavoratori si è molto ridotto, colpa anche di stipendi da tempo al palo. La fotografia del lavoro con Carlos Corvino della Direzione Centrale Formazione e Lavoro della Regione. Mediamente noi abbiamo degli stipendi relativamente bassi. Se posso dare un numero, sul Friuli Venezia Giulia il reddito annuo lordo è intorno ai 25.000 euro appunto lordi. Va sottolineato che se l'occupazione a tempo indeterminato questo livello è intorno a 29.000, se invece parliamo di tempi determinati più diffusi tra i giovani e le donne siamo a 11.000. Gli stipendi sono al palo anche se le aziende sono sempre più alla ricerca di lavoratori. D'altra parte l'offerta di manodopera è scarsa. Le regole classiche del mercato vorrebbero che quel poco di lavoro che c'è le aziende lo strapagassero. Perché questo invece non avviene? Perché in realtà il salario è una questione di rapporto con le istituzioni, in particolare quelle pubbliche, cioè il mancato rinnovo di molti contratti nazionali, il fatto che virtualmente si potrebbe incidere sui salari nella contrattazione di secondo livello, cioè tra l'impresa o le imprese e i lavoratori. Quali sono i settori pagati meglio e quali peggio in regione? Sopra la media stanno le attività finanziarie e assicurative, la fornitura di energia, i servizi di informatica e comunicazione, le attività manufatturiere, eccetera. Invece stanno sotto la media del lavoro dipendente, le costruzioni, il commercio all'ingrosso al dettaglio, le attività immobiliari, la sanità e l'assistenza sociale, soprattutto per ciò che riguarda il personale di servizio, quindi non i medici, per capirsi, quindi infermieri e tecnici, l'istruzione e, ultimo fanalino di coda, le attività e i servizi di alloggio e ristorazione, quindi il turismo. Ironia della sorte, questo è uno dei settori dove maggiore è la richiesta. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Una regione che a livello di salario si colloca nelle zone alte in classifica, ma può fare meglio. Uno dei freni della crescita è la dimensione troppo piccola delle imprese. Si tratta di un fenomeno che non riguarda Trieste, dove invece si concentrano quelle più grandi e che, per questo, pagano di più. Ne abbiamo parlato questa mattina, sempre a Buongiorno Regione, con Massimiliano Ciarrocchi, direttore di Confindustria, Friuli Venezia Giulia. Con quasi 25.000 euro di reddito annuo lordo, che è la media dello stipendio di un anno di un lavoratore, escluse le tasse, il Friuli Venezia Giulia si colloca, a seconda delle classifiche, tra il sesto e l'ottavo posto in Italia per quanto riguarda i salari. È sotto Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, ma anche Trentino e Liguria. Il direttore di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Ciarrocchi. È vero che siamo più bassi, è anche vero però che se andiamo a vedere qual è la percentuale di aumento della RAR negli anni, negli ultimi 10 anni quella che performa meglio nel nord in realtà è Friuli Venezia Giulia, perché la RAR è aumentata del 20%. Al di là del confronto tra regioni, a definire il diverso peso del salario sono vari fattori. Gli stipendi sono sostanzialmente diversi a seconda dei settori, laddove ho settori dove c'è una presenza di servizi ad alto contenuto tecnologico, no? Ad alta digitalizzazione, oppure imprese manifatturiere con vocazione all'export di prodotti finiti, la RAL è più alta. Laddove invece ho servizi a basso contenuto tecnologico o di servizio, è chiaro che la RAL è più bassa. Se guardo Friuli Venezia Giulia, infatti, il reddito annuo lordo più alto è a Trieste. Nel capoluogo della regione le industrie sono poche, ma di grandi dimensioni. In più ci sono gli uffici centrali e la pubblica amministrazione, tutte attività che alzano il reddito. Ma in generale la questione delle dimensioni di impresa rimane decisiva. Non si può generalizzare, però per troppi anni ci siamo attaccati al mito che piccolo è bello. In un mondo come quello attuale, in cui la competizione è globale, piccolo e bello non funziona più. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni di nicchia dove la piccola dimensione, penso ai mosaicisti, tanto per citarne uno, è chiaro che lì deve essere piccolo. Ma altrimenti, se io mi confronto con un mondo che si sta ampliando sempre di più, la dimensione è importante, perché mi consente fondamentalmente di dare intanto salari più alti ai lavoratori con la contrattazione, con una maggior marginalità, ma mi consente anche di intercettare quelle che sono le vie di sviluppo futuro, la digitalizzazione, l'innovazione. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Annullare il trattato di cooperazione militare fra Italia e Israele in scadenza l'8 giugno potrebbe rappresentare un segnale importante per spingere il governo israeliano a un cessate il fuoco e fermare la strage della popolazione palestinese. In questo senso l'ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea del Sindacato Pensionati CGIL del Friuli Venezia Giulia riunitasi a Cervignano. Visto l'aggravarsi della drammatica situazione di Gaza, dove continuano i bombardamenti indiscriminati, l'uccisione di civili e bambini, la distruzione del sistema sanitario, il blocco di medicinali e presidi sanitari, la desertificazione del territorio e persino la carestia intenzionale, si legge nell'ordine del giorno, l'Assemblea della CGIL Pensionati ritiene che il governo italiano debba porre termine a ogni forma di collaborazione militare con Israele. Da qui la richiesta alle forze politiche, al mondo dell'associazionismo e a tutti i cittadini di mobilitarsi per spingere il governo verso l'annullamento del trattato. È iniziata questa mattina la fiera di Martignacco, una 2 giorni dedicata al contributo che l'intelligenza artificiale può dare all'agricoltura. Esperti del settore accademico e istituzionale discutono opportunità, rischi e applicazioni concrete con focus su governance dei dati e strategie europee come l'AI Act. Nel pomeriggio un corso di formazione con il conduttore RAI Federico Quaranta. L'evento è gratuito e aperto a tutti previa iscrizione. Fra i relatori ci sono anche proprietari di aziende agricole che spiegheranno concretamente in che modo applicano l'intelligenza artificiale nel loro lavoro quotidiano, come Francesco Savian, ricercatore per i vivai cooperativi di Rauscedo. Sentiamolo. I vivai cooperativi negli ultimi 3 anni hanno iniziato a investire all'interno di questa tecnologia principalmente per fronteggiare quelli che sono tre aspetti. Il primo aspetto riguarda il monitoraggio delle rese, quindi il monitoraggio delle rese in gemme dei nostri vigneti da cui preleviamo il materiale per la creazione delle nuove barbatelle. E un secondo aspetto invece riguarda il controllo qualità post raccolta. E un ultimo aspetto del controllo varietale, quindi in pieno campo, stiamo cercando di identificare delle intelligenze artificiali che possano controllare la conformità delle varietà che stiamo coltivando. Ci fa un esempio concreto di come fa il campo, la terra, a comunicare con un computer, una banca dati dell'intelligenza artificiale? Quello che noi facciamo è principalmente un'intelligenza artificiale di riconoscimento d'immagine, quindi abbiamo dei sensori ottici che sono in grado di cogliere che quella che è la situazione in campo. Questa situazione può essere poi interpretata o direttamente nel dispositivo o magari in un secondo momento in un computer aziendale. È come se aveste molti più occhi esperti sul campo che vi danno informazioni? Esattamente, essenzialmente noi quello che stiamo cercando di fare è trasferire quella che è la conoscenza di oltre 90 anni di esperienza, stiamo cercando di tradurlo in quello che può essere uno strumento che possa supportare appunto l'attività. Si tratta di risparmiare tempo o si tratta di avere una risposta di qualità maggiore? Cioè l'intelligenza artificiale capisce meglio se ben istruita di quanto può capire una persona? Sicuramente c'è un risparmio di tempo, ma c'è anche un aumento di qualità a livello di informazione, a livello di tracciabilità. I funerali di Nino Benvenuti, il campione olimpico nel 60, poi campione del mondo dei pesi super welter e medi, morto ieri a Roma all'età di 87 anni, si terranno nella capitale, nella Chiesa degli Artisti, domani, giovedì, alle 11.30 in Piazza del Popolo. A ufficiare la cerimonia funebre sarà Monsignor Antonio Staglianò. In un'operazione congiunta alla Guardia di Finanza di Pordenone e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 3.500 forbici odontoiatriche importate dal Pakistan da un'azienda del Maniaghese perché senza indicazione del paese d'origine. 3.500 forbici odontoiatriche fabbricate in Pakistan e vendute da un'azienda di Maniago specializzata nella produzione e vendita di strumenti chirurgici senza l'indicazione di provenienza, ma solo apponendo il proprio marchio, lasciando così intendere che i prodotti fossero realizzati in Italia, in particolare nel rinomato distretto maniaghese del Coltello. I finanzieri del comando provinciale di Pordenone e i funzionari della locale agenzia delle dogane li hanno individuati nell'ambito dei controlli a tutela del Made in Italy. Davide Cardia è comandante della Guardia di Finanza di Pordenone. Questa operazione valorizza la forte sinergia che c'è con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, grazie alla quale siamo in grado di realizzare delle analisi approfondite selezionando obiettivi potenzialmente remunerativi. In questo caso un'azienda del Maniaghese aveva importato dal Pakistan 3.500 forbici odontoiatriche. Il controllo che abbiamo fatto assieme ai doganieri nei magazzini dell'azienda ci ha fatto rilevare che queste forbici erano state provviste del solo marchio di fabbrica, senza scrivere Made in Italy o Made in Pakistan. La presenza del solo marchio di fabbrica dell'azienda maniaghese avrebbe potuto indurre i consumatori in errore sul fatto che fossero state prodotte nel distretto del Coltello. È per questo che la fattispecie è di carattere amministrativo e prevede una sanzione da 10.000 a 250.000 euro. I prodotti sono stati sequestrati e il verbale inviato alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, competente per materia. Non è la prima operazione di questo tipo in questo territorio. Ancora Cardia. Ovviamente i controlli che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fanno agli operatori del settore tutela tutti quelli che invece operano onestamente a favore del Made in Italy e di una corretta distribuzione di prodotti realmente realizzati in Italia che diffondono la nostra qualità nel mondo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alle condizioni meteo, il cielo è coperto in montagna da nuvoloso a variabile sul resto della regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 18 gradi e 5 decimi, a Udine, Gorizia e Pordenone 20 gradi, a Tolmezzo 15 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 14 gradi, a Forni di Sopra 12 gradi e mezzo, a Sappada 10 gradi e 5 decimi. In quota sul Monte Lussari 8 gradi, sullo Zoncolan 7, sulla costa Lignano 19 gradi e mezzo, a Grado 19. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza nuvoloso, dal pomeriggio sulla zona montana possibili rovesci o temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare anche la pianura. Domani il cielo sarà coperto con piogge intense sulle prealpi e in pianura, abbondanti sulle Alpi e sulla costa. Saranno probabili rovesci scie temporali che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata. Localmente sarà possibile qualche rovescio temporale più forte. Soffierà scirocco, sostenuto sulla costa e moderato altrove. La nostra regione si attesta tra le migliori in Italia per la raccolta differenziata. Trieste però ferma al 48%, quindi bene al di sotto dell'obiettivo prefissato che è del 65%. Ma qualche sforzo si sta cercando di fare, come emerso dalla conferenza stampa del Consorzio Nazionale Imballaggi, CONAI, che si è da poco conclusa. Sentiamo cosa ne è emerso. I dati del Friuli Venezia Giulia relativi alla gestione dei rifiuti in regione li presenta questa mattina il CONAI, che è il Consorzio Nazionale degli Imballaggi. La regione non va male dal punto di vista della raccolta differenziata, parliamo di un 72%, ma con luci ed ombre, soprattutto per la città di Trieste. Ne parliamo assieme a Luca Piatto, che è il direttore dei rapporti territoriali di CONAI. Come sta questa regione dal punto di vista dei rifiuti? Dal punto di vista dei rifiuti, i numeri che ha appena detto appunto descrivono bene la situazione. 72% è un buon risultato, sopra il 65% che è l'obiettivo, è un risultato che consente alla regione di essere tra le prime 5-6 regioni d'Italia, tenendo conto che ce ne sono alcune che vanno davvero forte, quindi è davvero un buon risultato. La città di Trieste 48%, male. Esattamente, è un risultato che però, come dire, è conseguenza di situazioni diverse. Abbiamo province come quella di Pordenone che va davvero forte, abbiamo invece province, che poi è la città di Trieste, che invece ha un po' più di ritardo, sotto il 50%, come dire, è un numero che va aumentato assolutamente. La raccolta porta a porta dicono che a Trieste sia impossibile da fare, lei è d'accordo? No, la raccolta domiciliare può essere fatta anche a Trieste, naturalmente è un modello che va studiato, calibrato sulla realtà, che deve tenere conto di molte cose, della viabilità, delle pertinenze all'interno delle soluzioni abitative. Della bora. Della bora, tra l'altro anche, e quindi è sicuramente un modello che non è applicabile, ma non è neanche impossibile, si possono magari studiare alcune soluzioni intermedie, quindi si può fare, questo può essere un modello che può aiutare. Un appello quindi alla politica, si può far di più? Sì, si può fare di più, qualcosa c'è già in animo di fare, andando a misurare i conferimenti di indifferenziato di ogni cittadino, ancorché appunto col modello stradale, ma di andarli a misurare, questo è già un primo passo che intende fare l'azienda, e quindi insomma con la collaborazione della politica, e che potrebbe portare a un aumento importante della raccolta differenziata. Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine una strada chiusa per un giorno al traffico ma aperta ai cittadini è il risultato di una sperimentazione fatta da studenti di una scuola secondaria in collaborazione con ARPA, Comune e Fondazione Scarponi per sensibilizzare su temi come inquinamento e sicurezza dei pedoni, soprattutto nei pressi di istituti scolastici. Non è solo un pezzo di strada. Via Petrarca fa le prove per diventare strada scolastica. Mobilità sostenibile, meno inquinamento, maggiori spazi pedonali e sicurezza. Gli studenti della secondaria di primo grado Valussi ci credono e insieme ad ARPA FVG, Comune di Udine e Fondazione Scarponi hanno realizzato la sperimentazione che chiude per un giorno la strada al traffico e la apre ai cittadini. Spero anche che ci sia una educazione da parte dei figli ai genitori e anche il contrario, per farli venire a scuola in magari in modi alternativi, non sempre con la macchina. Marciapiede più largo è percorribile con passeggini e sedie a rotelle. Ciclabile, un questionario sulla mobilità casa-scuola e uno spazio dedicato a opinioni e suggerimenti. Silvia Della Casa, insegnante. Per i ragazzi dal punto di vista educativo è fondamentale che una cosa che loro hanno pensato e progettato con le loro forze sia riuscita poi con l'aiuto di qualcuno che naturalmente doveva essere più grande trovare una realizzazione. Il tratto è quello tra via Alfieri e via Chinotti. Da domani e per un mese fino al 28 giugno sarà percorribile a senso unico con possibilità di parcheggio soltanto da un lato, e proprio i parcheggi rappresentano una necessità secondo i residenti della zona. Paolo Fedrigo, ARPA FVG. La cosa importante è stata accompagnare i ragazzi in un ragionamento e poi anche in una proposta pratica che è stata accolta dal Comune nel trasformare almeno per un periodo la strada davanti scuola in qualcosa di diverso. Ivano Marchiol, assessore del Comune di Udine. Strade scolastiche è qualcosa di diffuso in Italia e in tutta Europa, e anche Udine vuole ascoltare il benessere di tutti, facendo attenzione anche ai residenti con cui c'è un canale di comunicazione aperto. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Domenica 8 e lunedì 9 giugno anche gli abitanti del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati a esprimersi su 5 referendum abrogativi. 4 riguardano il lavoro e 1 la cittadinanza. Allora ecco cosa bisogna sapere in vista del voto. I 5 referendum abrogativi per cui siamo chiamati a votare l'8 e 9 giugno puntano a cancellare singole parti di leggi che già esistono. Chi vota sì vota per la cancellazione, chi vota no chiede che rimangano valide le norme esistenti. 4 quesiti riguardano il lavoro. Il primo quesito, con la scheda di colore verde, riguarda i lavoratori assunti dal 2015 nelle aziende con più di 15 dipendenti e chiede di ristabilire l'obbligo di reintegro dei lavoratori in tutti i casi di licenziamento illegittimo, come prevedeva fino al 2015 lo Statuto dei lavoratori. Oggi la legge prevede invece un risarcimento fino a 36 mensilità. Il secondo, con la scheda di colore arancio, riguarda le aziende con meno di 16 dipendenti. Attualmente la legge prescrive che, in caso di licenziamento illegittimo, l'indennizzo massimo sia di 6 mesi di stipendio, un limite che scomparirebbe in caso di vittoria del sì, lasciando maggiore libertà ai giudici nel calcolo del risarcimento. Il terzo, con la scheda di colore grigio, punta a limitare l'utilizzo dei contratti a termine. Attualmente si possono accendere contratti fino a 12 mesi senza specificare perché si utilizza quel tipo di contratto. Se vince il sì, l'obbligo ritornerebbe anche in questi casi. Il quarto, con la scheda di colore rosa, chiede la cancellazione di alcune norme per fare in modo che, in caso di infortuni di lavoratori delle ditte in appalto, eventuali responsabilità siano riconosciute anche alle ditte committenti, che ora rispondono solo per i rischi cosiddetti generici. Non riguarda il lavoro, ma il diritto di cittadinanza. Invece il quesito numero 5, con la scheda di colore giallo, punta a ridurre da 10 a 5 anni il periodo minimo di residenza necessario per i cittadini extra UE per ottenere appunto la cittadinanza italiana. Perché i referendum siano validi occorre che vada a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Se non verrà raggiunta questa quota, che in termini tecnici si chiama quorum, rimarranno valide le norme che già esistono. Si potrà votare domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Attraverso 10 sessioni tematiche interdisciplinari, una quarantina di giovani giuristi provenienti da 15 atenei italiani affronteranno le sfide del diritto europeo: intelligenza artificiale, immigrazione, ambiente, lavoro e sicurezza. Si tratta dell'ottava conferenza del dottorato di ricerca interateneo Udine-Trieste in diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo. L'appuntamento è a Trieste, nella sala Biasutti del Palazzo della Regione, da oggi a venerdì. L'apertura è prevista alle 15 con i saluti dei docenti delle due università. A quasi 5 anni dalla scomparsa, il giornalista Piero Villotto è stato ricordato nella sede goriziana dell'Università di Udine con il premio di laurea a lui dedicato e con una giornata di studio incentrata sulle nuove tecnologie del giornalismo. Il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'Università di Udine, assieme all'Ordine dei giornalisti regionale e nazionale, hanno reso omaggio a Piero Villotta, celebrando la sua inesauribile passione professionale e la sua costante ricerca e vicinanza all'universo giovanile. Nel workshop a lui dedicato sono state analizzate le sfide etiche, sociali e deontologiche emergenti tra giornalismo e intelligenza artificiale. Il premio di laurea Piero Villotta 2025 va a Giulia Sud per lo studio sul cyberbullismo e aggressività negli adolescenti. Alcuni di loro mi hanno riferito che secondo loro il cyberbullismo non esiste, che a prescindere c'è sempre stata aggressività da parte delle persone e che quindi bisogna solamente abituarsi a reagire in maniera corretta. Tre le menzioni speciali a Catarina Visintin per una tesi sui doveri e gli errori dei giornalisti nella narrazione della violenza di genere, a Martina Gentilini sul linguaggio verbale e non verbale nella politica con Kamala Harris e a Raffaella Brigio sull'intelligenza artificiale nella narrazione dei media. Sentiamo il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Furio Baldassi. Ci sono tesi di laurea che ho seguito che sono molto interessanti, introducono soprattutto a quello che è l'argomento più d'attualità in questo momento, che è quello dell'intelligenza artificiale, temuta però da non temere troppo perché ci sarà sempre bisogno della presenza umana per indirizzarla. La vedova di Piero Villotta è promotrice del premio di laurea, Adriana Ronco Villotta. Il mondo dei giovani è sempre stato interessante per Piero, un giornalista deve andare a cercare devi andare a sapere. Quindi tutto quello che è legato alla cultura, alla curiosità, era ottimo per Piero. Era giornalista, giornalista dell'anima. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR, Friuli, Venezia, Giulia. A breve anche Grado avrà la fibra ottica direttamente nelle case, uffici e alberghi. L'azienda che se ne occupa, la Lignano Banda Larga, è la stessa che ha da poco cablato le spiagge di Lignano, Sabbiadorio e Bibione, così da rendere gli operatori di queste località più competitivi sullo scenario dell'offerta turistica internazionale. Tutti i costi di scavo e posa della fibra saranno a carico dell'azienda, che si occuperà anche della gestione del servizio. Soddisfatto il sindaco di Grado Corbatto per la possibilità di avere una connessione internet più veloce e affidabile. Il Museo Revoltella di Trieste ha riaperto ufficialmente le sue porte al pubblico dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato l'accessibilità e la riqualificazione degli spazi d'ingresso. I lavori appena conclusi hanno coinvolto la zona d'ingresso, completamente ripensata e dotata di una nuova biglietteria più funzionale e di un bookshop rinnovato, in grado di offrire un'ampia selezione di pubblicazioni, oggetti d'arte e prodotti culturali. Oltre ai servizi igienici completamente rinnovati per garantire maggior comfort e accessibilità, è stata ricavata un'area pratica e sicura dedicata al guardaroba e al deposito bagagli. Il progetto di riqualificazione non si ferma qui, verranno avviati ulteriori interventi che riguarderanno l'auditorium Marco Sofianopulo, destinato a diventare uno spazio più versatile e accogliente per eventi, conferenze e attività culturali, e anche la sala scarpa, dove verrà completamente rinnovata per ospitare mostre temporanee in modo più funzionale e suggestivo. Lo sport basket, quinta decisiva sfida dei play-off di A2 tra Cividale e Forlì, che si affronteranno questa sera al Palagesteco dopo essersi aggiudicate due gare a testa. Il coach dei friulani Stefano Pillastrini si dice consapevole che le difficoltà saranno tante, ma sarà fatto tutto ciò che serve per vincere. La squadra si presenterà concentrata per un appuntamento così importante. Inizio alle 20:30. In Serie A intanto la Pallacanestro Trieste ha comunicato di avere ricevuto notifica di respingimento dell'istanza di sospensiva presentata al collegio di garanzia del CONI. Viene dunque confermata la sede del Palaverde di Treviso come teatro di gara 3 domani alle 21 della serie playoff, che vede un successo a testa tra i biancorossi giuliani e la Pallacanestro Brescia nella sfida al meglio delle 5 partite. Musica da camera, tradizione russa e spirito armeno nel concerto del Prometeo Ensemble in scena alle 20:30 al Teatro Mila di Trieste per la 30ª stagione cameristica Cromatismi, diretta da Fedra Florit. Il programma spazia tra i grandi maestri dell'Est Europa del Novecento, da Shostakovich ad Arutyunyan fino a Stravinsky e la sua Histoire du Soldat, al violino Grazia Raimondi, Michele Marelli al clarinetto e Ciro Longobardi al pianoforte. Dallo swing al pop, un viaggio musicale attraverso il tempo, è il concerto che dalle 19:30 animerà il Kulturni Dom di Gorizia. Sul palco il Free Voices Show Choir e la University of Notre Dame Concert Band dall'Indiana, Stati Uniti, fra jazz, swing e grandi brani internazionali. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Francesca Terranova e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.